Today we shall continue with what? The old topic or some new topic? Well, the same topic of wisdom, and there's still more to be explained. So the specific topic for today is other qualities of wisdom. Continuiamo con lo stesso argomento principale, cioè la saggezza. Ci sono tante cose da dire al riguardo. Oggi parleremo di ulteriori qualità della saggezza. Now, the Anguccia Nikaya contains a statement about obtaining wisdom, and it says, O retreatants, one thing, when developed and cultivated, leads to the obtaining of wisdom, to the growth of wisdom, to the expansion of wisdom. Sorry, one too much. Allora, nell'Anguttara Nikaya viene detto, o meditanti, c'è una cosa che quando viene sviluppata e coltivata porta all'ottenimento della saggezza. E la crescita della saggezza and to the expansion of it. E l'espansione della saggezza, l'ampliamento della saggezza. Furthermore, it leads to the greatness of wisdom. Inoltre conduce alla grandezza della saggezza. And it also contributes to or leads to the diversity of wisdom. E conduce anche alla diversità della saggezza. It leads to the vastness of wisdom. Alla vastità della saggezza. The depth of wisdom. La profondità della saggezza. It leads to a state of unsurpassed wisdom. A uno stato di saggezza insuperabile. It leads to buoyancy of wisdom. Buoyancy. So it's an expression of joy. An elated state. Ok, conduce a la gioia della saggezza. It leads to the rapidity of wisdom. E alla ripetizione, no. Rapidity. Alla rapidità della saggezza, scusate. And certainly it leads to the swiftness of wisdom. E alla velocità, alla rapidità della saggezza. To keenness of wisdom. Alla acutezza della saggezza. To the penetrativeness of wisdom. Al essere penetrante della saggezza. And what is that one thing that leads to all of those different kinds of wisdom? E che cos'è questa unica cosa che conduce a tutti questi tipi diversi di saggezza? So, what would you say? What is that secondo one thing? Secondo voi che cos'è? Any answers? What's that? Yes, that's correct. La consapevolezza. And actually, you know, the text is more specific than this. Mindfulness directed to the body. Il testo è più specifico e dice la consapevolezza diretta verso il corpo. Now, if just through mindfulness of the body, this wisdom can take on these many different qualifications, then if we include mindfulness of feelings, mindfulness of the mind, and certainly mindfulness of dhammas, then even more so will be able to experience these various kinds of wisdom. Quindi se soltanto la consapevolezza diretta al corpo può riuscire a condurci a tutti questi diversi tipi di saggezza, se noi includiamo anche la consapevolezza delle sensazioni della mente e dei dhamma, queste ancora di più ci potranno condurre a sviluppare tutti questi tipi di saggezza. Certainly here the link is between mindfulness directed to the body and the arising of wisdom. Quindi qui il collegamento è tra la consapevolezza diretta al corpo e il sorgere della saggezza. And then the Samyutta Nikaya, in a somewhat similar passage, states these four things, when developed and cultivated, lead to extensiveness of wisdom. Nel Samyutta Nikaya, in un passaggio simile, viene detto queste quattro cose, quando vengono sviluppate e coltivate, conducono a un'ampiezza, una vastità della saggezza. And so, these four things lead to a vastness of wisdom. Queste quattro cose che conducono alla vastità della saggezza. To depth of wisdom. Alla profondità della saggezza. To a state of unequaled wisdom. Uno stato di saggezza senza eguali. Then to the breadth of wisdom, so the width of it. E poi all'ampliamento della saggezza. Yeah, that's correct. The abundance of wisdom. L'abbondanza della saggezza. The quickness of wisdom. La rapidità della saggezza. And certainly then the joyousness of wisdom. E l'aspetto gioioso della saggezza. The sharpness of wisdom. La acutezza della saggezza. And then once again the penetrativeness of wisdom. E ancora l'aspetto penetrante della saggezza. And certainly in the passage, Chaitanya goes on to ask, what are those four things? And the answer is association with superior persons, hearing the true Dhamma. E quali sono queste quattro cose? L'associarsi a una persona saggia e l'ascoltare il vero Dhamma. And then furthermore, a careful attention. Un'attenzione accurata. And practice in accordance with the Dhamma. E praticare in accordo con il Dhamma. And so those four things, when developed and cultivated, lead to all these various kinds of wisdom. Queste quattro cose, quando sono sviluppate e coltivate, conducono a queste varie qualità della saggezza. Now, there are so many different qualifications of wisdom that we cannot cover all of them, but allow me to pick out a few and give some explanations. Allora, ci sono così tante qualità, diversi aspetti della saggezza che non possiamo trattarli tutti, ma adesso ne prenderò qualcuno da trattare più in dettaglio. Now, knowledge becoming wider and wider, so the breadth of wisdom is increasing. These meditators can see for themselves. Quindi una cosa che un meditante può vedere da sé è questo fatto che la saggezza e la conoscenza si ampliano sempre di più, diventano sempre più. And if you recall how you came to understand the rising and falling movement of the abdomen during the first sitting session of this retreat, and your current knowledge or understanding of it, then would you say you're seeing more or less, or about the same as before? Se per esempio adesso vi ricordate com'era la vostra conoscenza del salire e scendere dell'addome alla prima seduta di questo ritiro rispetto a quello che riuscite a conoscere adesso, direste che è di più o di meno? And as we continue to deepen our practice, our understanding of the rise and fall and other objects will widen even further. E poi quando continuiamo nello sviluppo della nostra pratica, la comprensione della salire e scendere dell'addome e di tutti gli altri oggetti si amplierà ancora di più. And if we then compare a yogi, let's say a beginning yogi, with an experienced yogi, who's certainly gone quite far in the practice, and compare the experiences, then we find the experiences are even wider, or the understanding is even wider. Se paragoniamo le esperienze di un meditante principiante con quello di un meditante molto esperto che è andato molto in là nella pratica, si potrebbe vedere che la conoscenza di quest'ultimo è molto molto più ampia, anche le esperienze che ha avuto. And so it's basically like an iceberg. At first we only get to understand the very tip of the iceberg, and certainly then as certainly we keep on practicing, our understanding becomes far or wider and wider, broader and broader. Iceberg. Carino. Quindi all'inizio, quando pratichiamo, noi riusciamo a conoscere soltanto la punta dell'iceberg, mentre poi quando andiamo più in profondità nella pratica la nostra conoscenza diventa sempre più ampia e profonda. And so an iceberg that is in the Arctic, so only the tip of it will be visible, and there's still a lot underneath the surface. Quindi questi iceberg che stanno nell'Artico di solito hanno soltanto una piccola punta che viene fuori dall'acqua che è visibile, ma la maggior parte non si vede, è sotto. And what else? We can further say that when we first start out practicing, our understanding, our knowledge remains rather superficial. And as we go on, we then see that there are ever deeper depths to our experiences. All'inizio, quando iniziamo a praticare, le nostre esperienze sono piuttosto superficiali, e poi quando andiamo avanti riusciamo a renderci conto quando l'esperienza si fa sempre un pochino più approfondita. And if we think we've seen it all, well, wait and see, practice a bit more and you will come to discover new things. E quindi dovete avere soltanto un po' di pazienza e no. Ah, ok. Se pensate di aver già visto tutto, dovete andare avanti con la pratica e vedrete che vedrete qualche cosa di nuovo. And the Buddha has certainly spoken of 73 kinds of wisdom, and certainly so. That is quite a lot. Il Buddha ha parlato di 73 tipi di saggezza, che sono davvero tanti. And maybe that is an aspect of abundance of wisdom. E questo è un aspetto dell'abbondanza della saggezza. Now, the Patisambhita Magga states the following, namely that those who quickly perfect virtues will then experience a quick understanding, or this will lead to a state of quick understanding. Il Patisambhida Magga afferma che coloro che riescono a stabilirsi velocemente nella virtù riescono anche, cioè questa cosa li conduce più rapidamente alla comprensione. If a yogi comes on retreat for the first time, he hears about the 5 precepts, 8 precepts and so on, and then immediately says, okay, I'll go for that. And then makes it a point to meticulously observe the precepts, well, that will lead to a state of quick understanding. Whereas someone who starts discussing or debating in the mind whether this is really useful or not, and maybe or maybe not, etc., that will slow down, or that will not lead to a state of quick understanding. Quindi mettiamo che c'è un meditante che va al suo primo ritiro, sente parlare per la prima volta dei precetti e subito gli va bene questa cosa, quindi inizia subito a seguirli e questa cosa lo porterà a sviluppare una comprensione rapidamente, mentre un'altra persona magari potrebbe dentro di sé iniziare un po' un dibattito interiore se alcune cose gli piacciono o meno dei precetti, e quindi questo non lo condurrà a una comprensione rapida. Now the same thing goes for restraint of the senses. So, you know, during the early days of this retreat, the importance of the restraint of the senses has been explained, and some yogis will immediately take this to heart, implement it, and restrain the senses. And that then leads to a state of quick understanding, whereas others might take quite a while to restrain their senses. La stessa cosa vale per il contenimento dei sensi, di cui abbiamo parlato i primi giorni del ritiro, e ci sono stati dei meditanti che hanno subito capito questa cosa, l'hanno subito presa molto a cuore, e questo li ha portati a sviluppare rapidamente delle comprensioni, mentre per altre persone ci è voluto più tempo prima che riuscissero ad attuare questo contenimento sensoriale. The same thing goes for a right amount in some moderation in eating, hearing about this and then applying it, implementing it, and that then leading to a state of quick understanding, where someone else might first eat in an excessive manner. La stessa cosa vale anche per la moderazione nel mangiare, ci sono state persone che hanno subito seguito questo consiglio, questo punto, e hanno sviluppato rapidamente la comprensione, mentre altri magari hanno ecceduto un po' troppo nel cibo. And then the same thing goes for the devotion to wakefulness, to the Dhamma of virtue, to the Dhamma of concentration, the Dhamma of wisdom. La stessa cosa vale per rimanere svegli, cioè non dormire troppo, e poi per lo sviluppo appunto nella virtù, nella concentrazione, nella saggezza. The Patimadhyana, this is only for general knowledge. The Patisamhita Magga further states that the contemplation of impermanence, when developed and cultivated, fulfills swift wisdom. Il Patisamhita Magga dice che la contemplazione dell'impermanenza, quando viene sviluppata, conduce alla rapidità della saggezza. Whereas, in the case of the contemplation of suffering, this fulfills discriminating wisdom. Mentre la contemplazione della sofferenza riguarda la saggezza che discrimina, che discerne. Yeah, that's it. And the contemplation of non-self fulfills great wisdom. La contemplazione del non sé porta a compimento la saggezza più grande. And in fact, when we look at these three universal characteristics of anicca, dukkha and anatta, anatta is the one that is more difficult to understand. Quando guardiamo le tre caratteristiche universali di anicca, dukkha e anatta, anatta è la più difficile da comprendere. The contemplation of revulsion is said to fulfill sharp wisdom. La contemplazione della ripugnanza viene detta portare a compimento l'acutezza della saggezza. And the contemplation of dispassion fulfills extensive wisdom. Mentre la contemplazione del distacco compie la saggezza estesa, ampia. Now, the Buddha has at some point remarked about Sariputta that he is wise. A un certo punto il Buddha, parlando di Sariputta, dice che egli è saggio. And he then went on to say that Sariputta has great wisdom, has wide wisdom, joyous wisdom. Dice che Sariputta ha una saggezza che è grande, che è ampia, che è gioiosa. Quick wisdom, keen wisdom. Rapida, acuta. And penetrative wisdom. E penetrante. Now, let's certainly see how the wisdom unfolds as we go along. Vediamo come si sviluppa la saggezza mentre noi proseguiamo. So, beginning retreatant, I will hear the instructions and certainly then will try to observe the rising and falling movement of the abdomen, and may take quite some time to actually make out the rise and fall, and it might take some time to differentiate between rising and falling, and furthermore to differentiate discern the various sensations in the rising movement and certain other specific sensations in the falling movement. Allora, un meditante principiante ascolta le istruzioni, poi cerca di seguire il salire e scendere dell'addome, cosa che gli risulta un po' complessa, poi avrà delle difficoltà a distinguere tra il salire e lo scendere dell'addome, poi avrà difficoltà anche a distinguere tra le diverse sensazioni che compongono il salire o lo scendere dell'addome. And so during the early days of such a yogi's retreat, well, the hindrances are likely to arise. Among them, we have sloth and torpor, so in between one falls asleep, and that is not really conducive to wisdom. E quindi i primi giorni del ritiro, un meditante di questo genere, gli ostacoli sorgeranno abbondanti, poi sorge anche la sonnolenza, il torpore, quindi a un certo punto in mezzo alla meditazione ci si addormenta e queste cose non è che conducono molto alla saggezza. No, as one continues, one comes to discern that physical and mental formations are connected by cause and effect. Però poi, continuando, si inizia a comprendere che i fenomeni fisici e mentali sono collegati da causa ed effetto. And then one gradually comes to understand, to know one rising movement in its entirety, so from its very beginning through the middle until the very end. E poi gradualmente si inizierà a riuscire a conoscere l'intero movimento del salire o dello scendere, quindi proprio dal suo inizio lungo tutta la sua durata fino alla fine. And the same thing then goes for the falling movement and any other predominant object. E la stessa cosa vale anche per il seguente movimento dell'addome e per tutti gli altri oggetti predominanti. Now, at that point in the practice, a retreatant typically has, relatively speaking, a lot of time to carefully observe the very arising of, the falling movement, then to follow it as it is occurring, and certainly then to see how it is disappearing. Quindi in questo momento della pratica per il meditante è come se ci fosse un sacco di tempo per osservare proprio il sorgere del movimento dello scendere, diciamo, e tutto il suo sviluppo fino a proprio alla fine. And so at that point, the meditator will see already much more than a retreatant at the very outset of the retreat. E a quel punto il meditante sta già vedendo molto di più di un meditante che invece è proprio all'inizio del suo ritiro. So, various sensations that are occurring as part of one single rising movement. Quindi anche diverse sensazioni che fanno parte di un singolo movimento dell'addome. And beyond that, a retreatant might notice even earlier on that one rising movement consists of various segments. E poi un meditante può notare che un movimento, per esempio, del salire è composto da vari segmenti. Now, as one continues to observe the rising and falling movement of the abdomen and other predominant objects, one comes to understand that the formations are impermanent in nature, one comes to understand that they are unsatisfactory in nature and also not self. E poi continuando ad osservare, salire e scendere dell'addome e gli altri oggetti predominanti, il meditante inizia a rendersi conto che sono tutti impermanenti, inizia a comprendere anche l'aspetto della insoddisfazione, cioè della sofferenza e della non sé. And at that point one will have overcome the hindrances and with that a number of beautiful mental states are bound to arise. A questo punto gli ostacoli vengono superati e quindi degli stati mentali belli e salutari di solito iniziano a sorgere. Uh-huh. And the first one among them is illumination or basa in the Pali scriptural language. Il primo tra questi è la luce o basa. And certainly this illumination may or covers all sorts of light related phenomena, so seeing some lights in the mind itself or maybe even outside, sparkles and so on. E questo va a coprire tutte le esperienze che hanno a che fare con delle luci, quindi alcune volte si vedono proprio della luce sia nella mente che anche altrove o delle scintille. And what then happens is that wisdom or knowledge arises as one of those beautiful mental factors, jnana in the Pali scriptural language. And the wisdom at that point is certainly described in the Visuddhimagga as an unerring, so not making errors, an erring, keen, incisive and a very sharp knowledge. Allora, un'altra cosa che inizia a sorgere, appunto, una forma di saggezza, cioè di conoscenza, che è acuta, che non commette errori, quindi è molto chiara. Mm-hmm. Incisive. Incisiva. Mm-hmm. And very sharp. Acuta l'ho detto. Okay, and the Visuddhimagga adds, it's like the knowledge at that point is like a lightning flash. E quindi la conoscenza in questo momento è come un fulmine. Now, what then happens is that this or that object occurs or rapidly arises and the mind is so sharp that immediately it knows certainly the object. Quindi quello che succede è che un oggetto sorge in modo anche molto rapido e la mente è così veloce che riesce subito a notarlo. And if previously a retreatant had to make much effort to clearly see an object and to properly aim the mind towards the object, now this happens automatically. E se prima il meditante aveva molte difficoltà a osservare un oggetto e a indirizzare la mente verso l'oggetto, adesso questo avviene con grande facilità. So the object arises, the mind immediately goes there and immediately knows the nature of it. Quindi, and the object disappears. Quindi l'oggetto sorge, la mente immediatamente va all'oggetto, lo conosce, conosce la sua natura e poi l'oggetto scompare. And this may happen at times with quite a number of objects in a quick succession, so quick that certain retreatants typically can no longer label. Questo poi succede a volte con una serie di oggetti diversi in una sequenza molto rapida, tanto che il meditante non è più in grado di usare le etichette, di nominarli. And so if you compare that swiftness, that quickness of the mind that has been compared to a lightning, a flash of lightning. Two, earlier on, having ample of time to observe one rising movement from its very beginning through the middle until the very end. There's a huge difference there. E a questo punto il meditante può fare un confronto tra la rapidità che c'è in quel momento della mente, che appunto è rapida come un fulmine tra un oggetto e l'altro, e invece ha le esperienze che ha fatto in precedenza, quando si aveva tutto il tempo per seguire un movimento del salire dall'inizio alla sua continuità fino alla fine. And certainly at that point, meditators also see tiny, tiny little sensations here and there. E a questo punto i meditanti vedono anche molte piccole sensazioni qui e là. And those objects are not gradually, slowly arising, but all of a sudden an object is there, next moment it disappears. E questi oggetti non stanno sorgendo non stanno sorgendo lentamente, ma invece appena sorgono svaniscono. Now, when a retreatant comes to see how quickly the knowledge arises, then this may serve as an inspiration. E il fatto che il meditante vede con quale rapidità questa conoscenza sorge gli dà molta ispirazione. An inspiration because one sees the potential of developing the mind. Perché riesce proprio a vedere il potenziale che c'è nello sviluppo della mente. So at the very outset of the retreat, the mind was rather slow and sluggish and lacking alertness, etc. And all of a sudden, let's say maybe 2 weeks later or so, or 1 week later, the state is quite different. Quindi all'inizio del ritiro vedeva che la mente era così pigra, lenta, e non era chiara, invece dopo una o due settimane di ritiro la situazione cambia completamente, la mente diventa molto rapida. And then, what happens next is interesting, fascinating even. It concerns suddenly the insight knowledge of dissolution, in the Pali scripture language known as Bhangajnana. Quello che avviene dopo è molto interessante e riguarda la conoscenza della dissoluzione, che in Pali si chiama Bhangajnana. E la Visuddhimagga contains 4 verses related to that very insight knowledge. Il Visuddhimagga contiene 4 versi che si riferiscono proprio a questa conoscenza di insight. And it's only the first one that we will take a closer look at. Guarderemo soltanto il primo da vicino. So, it says, the substitution of the object. Dice, la sostituzione dell'oggetto. The transference of understanding. Il trasferimento della comprensione. The power of adverting. Il potere del indirizzare, del voltarsi verso. These are insight following observation. Questi sono degli insight che seguono l'osservazione. No, what this means is that substitution of the object. So having seen a material object like a pain disappear. Having seen that, then the attention goes to the consciousness that has seen the earlier material object as disappearing, and that consciousness itself disappears. Allora, quando si parla di sostituzione dell'oggetto, si sta parlando di questa cosa che succede in meditazione, quando si sta guardando magari un oggetto, tipo un dolore, e avendo visto la scomparsa di questo dolore, l'attenzione va automaticamente alla mente che ha osservato la scomparsa di quell'oggetto, e quindi l'attenzione vede quella mente e anche quella mente viene vista scomparire. And the second line, the transference of understanding, you know, refers to earlier on, the retreatant sees objects as clearly arising in the next moment, passing away, and now the focus is increasingly on observing the dissolution of formations, the ending of formations. Quindi il trasferimento della conoscenza si riferisce al fatto che in precedenza il meditante riusciva a vedere gli oggetti sorgere e scomparire nella loro interezza, mentre adesso la conoscenza si osserva principalmente il momento della scomparsa degli oggetti. And the third line, the power of adverting, means this fabulous ability of the mind to first advert to the material object, then having seen that as disappearing, then to shift the advertence to the respective consciousness that saw the material object as disappearing. E questo potere del voltarsi, del mirare diversamente l'oggetto, si riferisce proprio a questa cosa, alla rapidità con cui la mente riesce, dopo aver osservato un oggetto, la scomparsa di un oggetto fisico, a voltarsi immediatamente a vedere la scomparsa della coscienza stessa che ha appena osservato la scomparsa dell'oggetto fisico. And at times, but this is a bit rare, at times the retreatants can see first the dissolution of the material object, then the dissolution of the labeling, and then the dissolution of consciousness. E alcune volte il meditante può osservare la scomparsa dell'oggetto fisico, la scomparsa della nota e la scomparsa della coscienza. And so this understanding of this dissolution of formations happens so quickly that the mind is even swifter, faster than earlier on. E questa conoscenza della dissoluzione e vedere questi momenti di dissoluzione avviene così rapidamente che la mente è ancora più veloce, più rapida di come era prima. And as we continue to observe predominant physical and mental formations, some formations certainly might arise rather quickly, and so the mind has to deal with those objects. E mentre continuiamo a osservare le formazioni mentali e fisiche che scompaiono così velocemente, la mente deve avere a che fare, deve riuscire a confrontarsi con questo. And then during yesterday's discourse, we explored the cognitive series in the case of the path and flourishing attainment. Ieri abbiamo analizzato il processo cognitivo che riguardava l'ottenimento del sentiero della fruizione. And this is typically part of an acceleration of objects as well as an acceleration of the mind itself. E questo è parte di una accelerazione nell'oggetto e nella mente stessa. And that acceleration may become very, or the speed of the mind may become very high. Fast. L'accelerazione della mente può diventare veramente molto veloce, rapida. And wisdom is, properly developed wisdom, then has the capacity, despite of the fact that objects are happening so quickly, that it can follow. E la saggezza ha questa capacità, c'è cioè una saggezza che è ben sviluppata, ha questa capacità di riuscire a seguire tutti questi momenti di scomparsa, sebbene siano così tanto rapide. Now, the Venerable Sayadaw Pandita himself, Burma, has given explanations on sharp knowledge, strong knowledge, clean and progressive knowledge. Allora, Sayadaw Pandita dà una spiegazione sulla conoscenza acuta, sharp, clean, pulita, la conoscenza pura. Strong, sharp, strong, clean. No, conoscenza acuta, forte e pura, limpida. And progressive. E progressiva. Now, the context in which this certain wisdom or knowledge occurs consists in the five controlling faculties. Quindi il contesto in cui sorge questo tipo di saggezza sono le cinque facoltà di controllo. And those five controlling faculties, to name them again, are the controlling faculty of faith, controlling faculty of energy, of mindfulness, of concentration and wisdom. Quindi ripetiamo un attimo quali sono. Sono le facoltà di controllo della fede, dell'energia, della consapevolezza, della saggezza e della concentrazione. Vabbè. And then... Those five controlling faculties can be sharpened according to the Visuddhimagga in nine different ways. E queste facoltà di controllo possono essere raffinate secondo il Visuddhimagga in nove modi diversi. And through this sharpening, then the faith, the energy, mindfulness, concentration and wisdom truly become controlling faculties. E attraverso all'acuire queste facoltà che l'energia, no, la fede, l'energia, la consapevolezza, la concentrazione, la saggezza diventano delle vere facoltà di controllo. Yes. And also the explanations with regard to sharp vipassana knowledge. Quindi la spiegazione che riguarda una conoscenza di vipassana acuta. And Sayadaw Pandita explains, the stronger the controlling of samadhi, the controlling faculty of samadhi, the more easily vipassana jnana penetrates the conditioned physical and mental dhammas. Quindi Sayadaw Pandita dice più forte è la facoltà di controllo del samadhi, cioè della concentrazione, e più la saggezza intuitiva della vipassana può penetrare i fenomeni mentali e fisici. Yeah, and the physical and mental formations that are the field of observation and of observable objects. Che sono il campo dell'osservazione e anche il campo degli oggetti osservabili. And that in Pali is known as sukha nupa veso, but never mind the Pali. So easily penetrating the object moment after moment without slipping off. Quindi osserva in modo penetrante e acuto gli oggetti un istante dopo l'altro senza mai scivolare via. So when the object of the arising appears, the arising of the abdomen appears, the controlling faculty of wisdom easily penetrates it as if sliding into the object. Quindi non appena il sorgere del salire dell'addome compare, la saggezza riesce subito a penetrarlo. And there's no weariness at all at that point. E non c'è stanchezza per niente. The mind is easily and firmly planted on the object. La mente è piantata stabilmente dentro l'oggetto. That is the sharpness of vipassana knowledge. Questa è l'acutezza e rendere acuta la conoscenza di vipassana. And so this is due to what? E questo viene a causa di cosa? So this is due to the power of the controlling faculty of concentration. Grazie al potere della facoltà di controllo della concentrazione. And this occurs with the help of the controlling faculty of concentration. Grazie all'aiuto della facoltà della concentrazione. That is what is meant by vipassana knowledge being sharp. E con questo che si intende quando si dice che la conoscenza di vipassana è acuta. Now, the yogi is able to observe accurately, meaning the mind falls collectively on the object of observation continually without missing. Quindi la mente riesce ad osservare le minuzie, nei dettagli, in modo continuativo, la mente si raccoglie in modo concentrato sull'oggetto. And certainly this one, or from this one can then follow that this is because samadhi is strong. E questo avviene perché appunto il samadhi è forte. Now at the stage of the fast arising, passing away of formations, Udiyabhaya Jnana, this occurs automatically. E quindi a questo punto la fase del sorgere, del passare rapido dei fenomeni, Udiyabhaya Jnana, avviene in modo automatico. And this occurs for yogis who meditate with careful respect and continuity. Quindi questo avviene nei meditanti che hanno meditato con, in modo rispettoso e continuo. But it will not occur for those who practice without care and certain continuity. Ma non avviene in chi medita in modo non continuativo e disattento, senza cura. The second qualification of knowledge is as strong or firm vipassana knowledge. Poi la seconda qualifica della conoscenza è questa conoscenza forte e ferma. Ferma. And that occurs when we observe the various objects in a manner with absolutely continuous mindfulness. So mindfulness, one moment of mindfulness following the next moment of mindfulness. Questo avviene quando osserviamo vari oggetti diversi, ma con una consapevolezza che è continua e ferma, quindi un momento dopo l'altro la consapevolezza è sempre presente. And so if you have a longer series or a string of continuous moments of mindfulness, then the resulting mindfulness will be very strong. Quindi se riusciamo ad avere una serie di momenti consecutivi e ininterrotti di consapevolezza, la consapevolezza che proviene da questo sarà veramente molto forte. And if concentration is present to some degree, then based on this continuous mindfulness arises strong and firm wisdom. E se la concentrazione è presente almeno in un certo grado, sulla base di questa consapevolezza che è continua, allora può sorgere poi una saggezza che è ferma e forte. And so this strong vipassana knowledge is due to the power of mindfulness. Quindi questa conoscenza di vipassana forte è dovuta alla consapevolezza della vipassana, al potere della consapevolezza. And the third type of knowledge is known as clear vipassana knowledge. Il terzo tipo è la conoscenza di vipassana chiara. And to start with an illustration, if you have a bowl filled with dirty water, and you just place the bowl somewhere, then over time, the sediments in the water will naturally settle. They will settle on at the bottom. Quindi per usare un'illustrazione, se abbiamo una palla piena di acqua sporca e appoggiamo la palla da qualche parte, dopo un po' di tempo tutte le impurità dell'acqua si depositano sul fondo. If however one then goes and shakes that bowl, then the sediments that have settled at the bottom will get stirred up and then they will cloud the water. Però se andiamo lì e agitiamo questa palla, tutte queste sedimenti ritornano nell'acqua e quindi renderanno l'acqua opaca, annebbiata. Now, this is just an illustration for what happens in the practice. When we observe objects, then and let's say the observation is coming along nicely, so we do succeed in observing and knowing the various qualities, then what can happen is that some degree of satisfaction arises, or maybe even some clinging to the situation. E quindi questa qua è un'illustrazione per quello che succede nella pratica. Se noi stiamo meditando anche abbastanza bene, quindi riusciamo ad osservare gli oggetti, eccetera, a un certo punto sorgerà una specie di soddisfazione per la pratica o addirittura un lieve forma di attaccamento. And that satisfaction and attachment to the experience then is like a sediment in the water, so it pollutes the mind. E quindi questa soddisfazione che sentiamo e questo attaccamento sono come i sedimenti che ci sono nell'acqua, nel senso che vanno ad inquinare un po' la mente. And then at times it could be one has clear-cut experiences and pride and conceit comes in. And the mind thinks, oh, I'm the greatest meditator ever. E succede anche quando abbiamo delle esperienze molto chiare che nella mente subentrino l'orgoglio e l'arroganza, la presunzione, quindi iniziamo a pensare, ah, io devo essere il meditante più bravo di sempre. And that pride and conceit, again, is like a sediment, and certainly it will pollute the mind. E anche l'orgoglio e la presunzione sono come questi sedimenti che inquinano la mente. And so in the presence of pride and conceit, of satisfaction and attachment and craving, the mind will be polluted and not clear. Quindi in presenza dell'orgoglio, della presunzione, della soddisfazione, dell'attaccamento e quindi anche della brama, la mente non sarà più chiara e limpida, ma sarà invece opaca e inquinata. However, when faith comes in as a controlling faculty, it contributes to, or it causes, those sediments, those pollutants in the mind to settle. And with that, the mind becomes clear. And with that, our knowledge becomes clear, Vipassana knowledge. Però se invece arriva la fede nella mente, la fede ha la capacità di fare depositare tutti questi sedimenti, quindi la mente torna a essere molto chiara e grazie a questo possiamo avere anche una conoscenza che è chiara. And the last point is progressive Vipassana knowledge. Poi il punto successivo è la conoscenza progressiva della Vipassana. And this Vipassana knowledge progresses due to the power of virya, of effort. E questa Vipassana progredisce grazie al potere di virya, che è l'energia. And that virya, or energy, is one of the controlling faculties. Che è appunto una delle facoltà di controllo. Now, what's might happen is we're practicing, the practice is going well, and then sooner or later some difficulties arise. So let's assume the hindrances come back. La nostra pratica sta andando bene, però a un certo punto sorgono di nuovo delle difficoltà, magari per esempio diciamo che tornano degli inquinanti. No, due to energy, we will continue to practice no matter what. E quindi grazie all'energia noi continuiamo lo stesso a praticare non importa quello che succede. And then eventually the hindrances will have been overcome or will be overcome, and then after a while maybe some intense pains might arise in the body. Quindi a un certo punto gli ostacoli vengono di nuovo superati, poi magari sorge un dolore molto intenso nel corpo. And again, with the energy, we overcome that pain. e ancora grazie all'energia riusciamo a superare anche questo dolore. And so with this then, intuitive knowledge can continue to arise in a progressive manner, stage by stage, despite of difficulties that might occur here and there. In questo modo la conoscenza intuitiva può continuare a svilupparsi un stadio dopo l'altro, nonostante ci possano essere delle difficoltà. Allow me to conclude today's sadhana discourse by wishing may your knowledge, your wisdom have those qualities of being sharp, being strong, clean and progressive. And this is it. Allora, vi auguro per che la vostra conoscenza e saggezza possano essere acuta, forte, chiara, pulita, pura e progressiva. Yeah. And may you realize the Dhamma. E che possiate realizzare il Dhamma. Voilà. And that's it for today. Sadhu, sadhu, sadhu.